La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 34 secondi in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia e vi segnala l'indirizzo, ve lo ricorda, la versione di Oscar che c'è radio24.it. Continuano ad arrivare moltissimi quesiti sulla pensione di reversibilità, come funziona oggi, come può cambiare. Io sto rispondendo a tutti, ma non solo per questo naturalmente, qualunque altra vostra richiesta di temi di trasmissione, interventi, opinioni, io rispondo. E infatti anche la trasmissione di oggi nasce da una richiesta dal basso, dagli ascoltatori, dai cittadini. E vi dico subito, potete telefonarci all'800 24 0024 come ogni giorno o per gli sms e le opinioni 349 238 6666. Il tema di cui parliamo oggi è relativo a una domanda che apparentemente può sembrare solubile con una risposta di puro buonsenso, ma naturalmente poiché viviamo in un paese in cui norme, leggi, circolari, regolamenti, ordinanze sono alla ricerca di continue vie per complicare la vita e per rendere il buonsenso apparente una soluzione che diventa impensabile come l'araba fenice, in realtà anche una questione che sembra di buonsenso diventa un ostacolo al buonsenso. Di che cosa parliamo? Della richiesta che centinaia di famiglie di Torino, la mia città, stanno facendo per via giudiziale al comune, il comune è contrario, su un tema che riguarda moltissimi italiani. Per questo dico telefonateci e date la vostra esperienza e la vostra opinione. E il tema è questo. La storia è iniziata quando nel 2014 i prezzi della refezione scolastica, stiamo parlando della refezione scolastica che i comuni offrono nel ciclo dell'istruzione obbligatoria, dal più basso al più alto anno dell'istruzione obbligatoria, nelle scuole della città. È un servizio di refezione che fa parte integrale dell'orario previsto nello svolgimento delle normali attività, quindi scolastiche e di istituto, ed è un servizio che di città in città ha diverse naturalmente quote di pagamento. Le quote di pagamento dipendono poi anche dal reddito delle famiglie, ma insomma si paga. Allora, la questione nacque nel 2014 quando il Comune di Torino ritoccò sensibilmente i prezzi della refezione, perché a seguito di una nuova gara il costo di aggiudicazione era salito e l'impugnativa che fu tentata da genitori che dicevano no, costa troppo, inizia a costare veramente troppo, nella fascia più alta parlava di superare la quota iniziale di 147 euro al mese, quindi non stiamo parlando di pochi soldi, ma l'impugnativa fu respinta. Passa il tempo, ma le famiglie continuano ad avere un problema irrisolto e a questo punto sollevano un'altra questione. Sollevano un'altra questione appunto di apparente, a mio giudizio, buon senso, magari mi sbaglio, che è questa su cui vi chiedo di telefonare per chiederci come funziona nel vostro comune, per dirci come funziona il vostro comune. La richiesta delle famiglie di Torino di cui ci occupiamo oggi è questa: consentiteci almeno, per chi non è in grado di pagare, di tenere i figli nell'orario scolastico previsto per la refezione a scuola, ma portandosi il cibo da casa, il panino da casa o qualunque cosa sia fatta a casa per consentire loro di mangiare, ma senza aver accesso al consumo della refezione per non pagare il costo. Questa cosa che sembra di apparente buonsenso, in realtà a Torino sembra proprio che non sia di buonsenso, perché il comune continua ad opporsi e si torna in giudizio. Allora, poiché alla luce della complessa geografia italiana ci sono tantissimi comuni in cui invece questa questione di buonsenso viene risolta con il buonsenso, cioè si dice certo che sì, è possibile, ma tanti altri invece in cui si dice no, non si può, quello che sfugge è la logica dietro il fatto che in Italia ovviamente ciascuno fa a modo suo delle amministrazioni pubbliche. Però il punto di fondo è questo: ma chi non si può permettere di pagare perché deve essere vietato dalla facoltà di preparare il cibo per i propri figli e mandarli muniti del cibo, usandoli e consumandoli quindi nel tempo della refezione? Ecco, questa è la questione. Telefonateci per dire voi come vi trovate con questo servizio, quanto pagate, se nel vostro comune è possibile dare una soluzione a questo problema come quella che chiedono le famiglie di Torino, oppure invece se no, in questo caso secondo voi se è giusto o meno. Ecco, abbiamo qui in rappresentanza di coloro che si stanno battendo per questo, che a me sembrano lamentare diritto, da una parte chi li patrocina in giudizio, e cioè l'avvocato Giorgio Vecchione. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E a nome dei tantissime famiglie, di tantissimi genitori che sono dietro a questa istanza, Emanuela Belloro. Grazie di essere con noi, Emanuela. Buonasera a lei. Allora, avvocato, ho commesso qualche errore nella sintesi, sicuramente sì, un po' stringata di come stanno le cose giuridicamente, ma voi dove adesso siete impegnati dal punto di vista giudiziale per tentare di far valere questo diritto, di fronte a che corte e quali sono gli argomenti contrapposti? Allora, dunque, errori no, non ne ha fatti, anche perché lei ha citato di norme, leggi, circolari, regolamenti che vieterebbero una situazione, una possibilità di questo tipo, ma in realtà grandi norme, leggi, regolamenti non ce ne sono, e c'è nulla praticamente l'amministrazione per non consentire questa possibilità di scelta. E con questo vado direttamente al nocciolo, le ragioni sono squisitamente economiche, perché comunque un servizio pubblico che, ancorché a domanda individuale, garantisce alle casse dell'amministrazione comunale delle entrate ingenti, in questi anni stiamo parlando di 100 milioni nel triennio, quindi non stiamo parlando 100 di... milioni per il comune di Torino in tre anni. Sì, praticamente le entrate previste a bilancio erano di questa natura qua, ed sono entrate che nel 2014 hanno consentito l'approvazione del bilancio, quindi non stiamo parlando di... trascurabili, sono i lumini votivi dei cimiteri. Quello che secondo me... Però, scusi, lei ha detto un termine che è il caso di sottolineare a chi è in ascolto e non è esperto di cose giuridiche. Ecco. È riconosciuto però da sentenze nel nostro ordinamento che sia... un servizio a domanda individuale. Se un servizio a domanda individuale, non dovrebbe essere ipso facto automatica la risposta alla richiesta che fanno le famiglie che lei patrocina? Sarebbe tanto bello se così fosse. Più che da sentenze, è proprio il decreto ministeriale del 31 dicembre 83 che ha istituito i servizi pubblici a domanda individuale, cioè quelli che il singolo cittadino, se se ne vuole avvalere, li paga, se non se ne vuole avvalere, non li paga. D'accordo? Quello che, rispetto alla sua sintesi di analisi generale, ha fatto, volevo soltanto precisare che non sono tanto le fasce che non si possono permettere o che hanno difficoltà nell'affrontare una spesa di questo tipo, perché le ragioni che possono portare una famiglia a scegliere di non avvalersi di un determinato servizio sono molteplici e tendenzialmente in uno stato liberale come il nostro dovrebbero essere insindacabili. Già sul d'accordo? Liberale come il nostro mi viene da sorridere, però questa è la mia opinione. Va bene, la condivido, lasciamolo così. Quindi le ragioni possono essere etiche, morali, religiose, che tendenzialmente nessuno le può contestare. Io faccio semplicemente l'esempio che poche settimane fa l'Organismo Mondiale della Sanità ha dichiarato cancerogene le carni rosse. Allora penso che ciascuno, nell'ambito della sua libertà individuale, anche nelle scelte alimentari, che è una libertà sancita dalla Costituzione, può tranquillamente decidere di non avvalersi più di un servizio di refezione che cucina carni rosse. Però no, ripeto, sono questioni che attengono alla disponibilità e all'autonomia. Ha ragione lei, stiamo parlando di un puro diritto alla libertà da parte delle famiglie di esercitare la potestà parentale anche su cosa mangiano i propri figli nella maniera più assoluta. E la ragione per la quale è stata fatta assunta questa iniziativa giudiziale, che è la prima iniziativa giudiziale che è stata assunta proprio per far accertare un diritto di questo tipo, che ripeto, sembra assurda, però effettivamente di fronte a un diritto inviolabile della persona sembra assurdo dover agire in giudizio per farselo riconoscere, però tant'è che il Tribunale di Torino, con una prima ordinanza, ha negato la sussistenza di questo diritto, travisando completamente quella che era la domanda processuale che era stata fatta. E su che base l'ha negata? ha negato la domanda andando alla ricerca non tanto della sussistenza del diritto quanto di quello che fosse l'obbligo dell'amministrazione di organizzare un servizio alternativo. I ricorrenti non avevano chiesto il servizio alternativo, non avevano chiesto nulla, avevano chiesto semplicemente di potersi sottrarre dal servizio di refezione scolastica e consumare il loro pranzo preparato da casa, che non è più ovviamente il panino, perché ci sono dei mezzi e degli strumenti per il trasporto e la conservazione dei cibi, che non siamo più negli anni 50. Non avevano chiesto nulla. Il tribunale ha detto che l'amministrazione non ha l'obbligo di garantire un servizio di assistenza. Peccato che il personale ATA, gli insegnanti, hanno già istituzionalmente l'obbligo di fornire l'assistenza, un obbligo che affonda le sue radici nel DPR 616 del 77, quindi non stiamo parlando di una cosa nuova. E seconda cosa, l'amministrazione non è tenuta a fornire un servizio di pulizie per i bambini che sporcano nel refettorio. Anche qua il servizio di pulizia è un servizio specifico, istituzionale, previsto nel contratto collettivo nazionale del personale ATA. Quindi di fatto non solo viene negata la possibilità di esercitare un diritto individuale, ma vengono anche additati questi genitori con una sorta di atteggiamento parassitario che fruirebbero di servizi che invece vengono pagati di chi fruisce della vita. E voi di fronte a questo siete in appello? Quindi. Di fronte a questo noi siamo in appello, ho depositato io questa mattina la conclusionale nel giudizio di corte d'appello, c'è ancora un termine per una memoria di replica e poi ci sarà una discussione orale che sarà fissata poi dalla corte d'appello. Oh, io vi dico solo che, cari ascoltatori, in realtà con puro buonsenso e senza ricorrere ai tribunali e vedendosi respinto il diritto, come avete sentito in prima istanza almeno dal tribunale, in tanti comuni italiani questa facoltà è stata pienamente accolta e riconosciuta dalle amministrazioni comunali. L'elenco lungo, ripeto, stiamo parlando di Lucca, Borso del Grappa in provincia di Treviso, Prizzi in provincia di Palermo, Morengo in provincia di Bergamo, Mogliano Veneto, Campo Morone in provincia di Genova e così via, così via, così via. Però detto tutto questo, io chiedo a questo punto a Emanuela Belloro come mamma, che cos'è che vi ha risolto a questa via, che come sempre è una via che impegna tempo, spese, risorse, eccetera, eccetera. Vi aspettavate una risposta di questo tipo da parte dell'amministrazione comunale, del tribunale? No, sinceramente no, per il semplice motivo che se la Costituzione dice che la scuola dell'obbligo deve essere gratuita e di fatto il tempo mensa fa parte a tutti gli effetti del tempo scuola, cioè gli alunni devono stare a scuola durante il tempo mensa, la cosa più logica sarebbe quindi permettere ai genitori di sottrarsi da un servizio che evidentemente non è più avvertito come tale dai genitori, che non riescono a star dietro ai costi di questa tariffa. Si parla di una tariffa troppo alta a Torino e quindi si chiedeva semplicemente di poter ottenere che effettivamente la scuola fosse riconosciuta come gratuita, così come dice la Costituzione, tutto qui. Oltretutto ci sembrava abbastanza logico, perché se di servizio si parla, appunto un servizio in quanto tale dovrebbe essere facoltativo, invece se il tempo mensa è obbligatorio ci sembra ovvio non doverci mettere nella condizione, perché ad oggi siamo costretti a fare questo, come unica scelta noi per poterci sottrarre al servizio mensa abbiamo quella di andare durante l'orario di lavoro a prendere i bambini a scuola, magari più di uno, magari in scuole differenti, portarli a casa, dargli da mangiare e riportarli poi a scuola. E questo, quando poi si parla di dover conciliare meglio i tempi di lavoro, esatto, con i carichi familiari, facciamo il contrario. Anche come rispetto nei confronti di un genitore lavoratore, credo che siamo veramente a zero. E oltretutto in questo modo appunto non si dà neanche modo al bambino di poter essere presente durante l'orario scolastico, perché il tempo mensa, ripeto, non la mensa, il tempo mensa fa parte proprio del tempo scolastico previsto. Ora, per esempio, alcuni ascoltatori, Carlo da Padova ci dice: guardi Giannino, a Padova il margine di contribuzione delle famiglie dichiarato è il 66%, ma il costo del pasto per il comune è il terzo segreto di Fatima. E la domanda che faccio, che fa Carlo da Padova nel suo SMS, è questa: può un pasto della primaria costare più di un pasto in una mensa ESU preparato per dei ventenni? Allo stato degli atti e delle tariffe che siamo obbligati a pagare è così. E tra l'altro questa questione di come si arrivi al costo praticato dai comuni era ben presente anche nell'impugnativa che fu respinta contro gli aumenti di costo che il comune di Torino praticò nel 2014, è vero, avvocato Vecchione? Ma guarda, la questione della composizione della tariffa è stata proprio una sorpresa in quel giudizio, perché fu il TAR Piemonte che ordinò espressamente al comune di Torino di depositare tutti i documenti di carattere contabile su come si componeva la tariffa. Allora, è stato scoperto che la tariffa era composta da due voci, costi diretti e costi indiretti. Costi diretti era l'importo che viene pagato per singolo pasto all'appaltatore. Certo. Poi c'era tutta una componentistica di costi indiretti che faceva sostanzialmente contabilmente ridere, perché c'erano a parte le voci duplicate, dei costi che non si comprendevano, una squadriglia di personale addetto alla mensa, quando io andavo a fare gli accessi in comune a prendere i documenti non c'era nessuno, cioè non riuscivo a trovarne uno, era già tanto. Da materiali di servizio come calline self-service, pentoloni da 3.000 euro. Pentoloni da 3.000 euro? 150 pentoloni da 3.000 euro che non si sa dove fossero, quando tutti questi beni strumentali erano beni dell'appaltatore. Che quindi era l'appaltatore che doveva fornire le cucine, le linee self-service, le stoviglie. Per dire quindi, a Carlo di Padova, che come si vede, laddove poi si ordina un'amministrazione dover esibire le cifre, delle cifre saltano fuori delle cose, come in questo caso, molto ma molto discutibili. Adesso abbiamo un minuto di interruzione sul traffico, poi torniamo con i nostri ospiti e con le vostre telefonate che vedo numerose. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta a 16:47 primi 56 secondi. Stiamo parlando di questo problema: centinaia di famiglie a Torino che chiedono in giudizio che venga riconosciuto il diritto, se è appunto un servizio a facoltà individuale, quello della refezione in orario scolastico offerto dal comune nella scuola primaria, che ricordiamo deve essere senza oneri per le famiglie della nostra Costituzione. Allora, perché non consentire che i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine vadano con nell'orario di refezione in cui devono essere a scuola, oppure devono essere ritirate dalle famiglie per sottrarsi al servizio, così funziona a Torino, di portarsi il pranzo da casa? L'amministrazione comunale è contraria. Alcuni di voi fanno notare, per esempio io leggo qui un messaggio: però se si fa così salta il numero minimo di pasti con cui l'amministrazione è impegnata con l'appaltatore concessionario, e quindi poi non tornano i conti. Ma sì, ho capito, ma forse viene prima il diritto di libertà delle famiglie, oppure no? Sto servizio è davvero a scelta individuale, come dicono le leggi, oppure no? Perché sembra di no, visto che poi se uno vuole esercitarla davvero la facoltà individuale. Sentiamo come la pensano alcuni nostri ascoltatori, poi torniamo con i nostri due ospiti. Cominciamo con Giovanni da Bergamo. Buonasera. Oscar Giannino, innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Sì, figuri, una trasmissione di servizio, ma sono le migliori secondo me. Allora, io le parlo da Bergamo, le do l'esperienza da papà sì. di una bambina che ha frequentato il ciclo primario. Sì. E le dico che a Bergamo la situazione è la medesima di Torino, uguale. Nel senso che i bambini devono pagare se vogliono restare a scuola fino alle 16:15, quindi loro fanno tempo scuola 8:15, 16:15, se non vogliamo usufruire della mensa alle 12:10 c'è bisogno di chi li vada a prendere a scuola. Chiarissimo. Pensate anche voi, nel caso, a una via come quella praticata dalle, secondo me, meritorie famiglie torinesi che si battono per il loro diritto, come è giusto, per vie legali. Vedremo poi l'appello se replica il no del tribunale, che però ha dato un'interpretazione che abbiamo sentito che non ci convince per niente. Io sono totalmente solidale con le famiglie che stanno battendo questa via legale giudiziale a Torino. Francesco da Roma. Sì, salve, complimenti per la trasmissione. E stavo solamente mettendo il punto sul fatto che secondo me è una grande truffa in assoluto, perché pensare che un bambino di 5, 6, 7, 8, 9 anni consuma un buono passo come un adulto che praticamente ha 23-24 anni per un prezzo medio di 5 euro, e non riesco proprio a fare i conti, anche perché poi sul piatto del bambino arriva di solito un'insalata, una fettina di mortadella e sì e no, e un piatto di pasta, eccetera. E la maggior parte dei bambini giocano a dire questo non mi piace, tutto perché manca una buona mensa interna dove si potrebbero cucinare dei buoni piatti a filiera corta. Aia, questo fare... significa personale per le scuole, non c'è posto nelle piante organiche. Ma non è vero, però sui prezzi sono d'accordo. Cioè, è assurdo, se uno assume delle persone che sanno cucinare, sicuramente in una scuola i bambini mangiano. Invece qui i bambini non mangiano perché le cose non gli piacciono, punto. Grazie Francesco. Massimo da Bergamo. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolti, io sono dirigente di un ente locale che gestisce mense Bergamo, quindi sì. Ha citato il caso. Vabbè, uno, volevo fare una precisazione sulla valutazione che dei 100 milioni che sono serviti a chiudere il bilancio, perché evidentemente comprendono anche un costo, poi si può discutere com'è composto o meno, ma non sono 100 milioni di entrata, sono il delta tra i costi, sì, chiarissimo. Sì, indiretti eccetera. L'altra cosa che volevo precisare, ho sentito il discorso del fatto che l'assistenza da prestare ai bambini che non usufruiscono della mensa non sarebbe un costo perché già prevista a carico degli ATA, cioè il personale, sì, ausiliario degli insegnanti. Ma se fosse così, questi sono soggetti dipendenti dallo Stato, quindi non si dovrebbe chiedere al Comune l'assistenza in quelle ore. Non riesco a capire il porre la questione quindi ai Comuni. Se il personale ATA si ritiene che debba fornire questo servizio, la domanda va posta alle amministrazioni dello Stato. No, ma la questione era sollevata in quanto una delle obiezioni alla facoltà di mandare i figli con il pasto preparato a casa era quello di dover assicurare questo servizio come se non fosse comunque assicurato a chi nel corso pieno, integrato dell'orario scolastico non si avvalga del servizio di refezione. Siccome è lo stesso personale, lei capisce che è un'obiezione dura da buttare giù, perché mica si tratta di organizzare una cosa ad hoc. Comunque, detto questo, grazie delle precisazioni, soprattutto per quello che resta nel bilancio comunale, giustamente il delta tra poi il costo che è riconosciuto all'appaltatore e il resto. Però a Torino su quel resto, insomma, c'era molto da discutere, non so, in altri comuni non mi sorprenderebbe se non fosse la stessa cosa. Pierluigi da Roma ancora. Sì, salve, pronto? Sì, dica. Sì, volevo dire, c'è la Convenzione dei diritti del fanciullo che è stata approvata dal nostro Parlamento nel 91, quindi non vedo come mai il giudice non dovrebbe poi dare ragione a questi genitori. Al massimo ci sarebbe, semmai, il problema della discriminante di bambini che magari mangiano cose diverse rispetto agli altri, ma spero che non si appellino a questo. Ma che cos'è? La stessa cosa nel piatto? Ma che siamo in Corea del Nord? Questa è la mia opinione, sono naturalmente un irriducibile individualista. Che cosa dice l'avvocato Giorgio Vecchione di fronte al richiamare la Convenzione dei diritti del fanciullo da parte del nostro ascoltatore Romano Pierluigi? Allora, io innanzitutto vorrei, se mi è consentito, certo, replicare brevissimamente, sì, all'amministratore di Bergamo, solo per precisare che la domanda processuale è stata fatta anche in contraddittorio con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, quindi non solo con l'amministrazione comunale. Quindi, quindi se c'è una questione di ripartizione di oneri sull'assistenza, se la veda l'amministrazione, esatto, con lo Stato, non è certamente il problema del genitore da capire chi paga l'insegnante o il personale ATA. Questa è la prima cosa. Sulla questione invece della discriminante di cui si parlava, io lo dico sinceramente, il problema principale che si sono poste le famiglie, che vedono nel domani il fatto di dover pensare tutti i giorni al pranzo per i figli, in linea di massima questo non è l'obiettivo vero, perché l'obiettivo vero è anche quello di creare una sorta di, mettiamo di virgolette, concorrente per le aziende di ristorazione che hanno nelle mamme le principali concorrenti nella prestazione di questo servizio. È così, perché nel momento in cui c'è un monopolio assoluto, allora si possono permettere di servire nel piatto di questi poveri ragazzi l'inverosimile. Quello che vogliono, bravo, bravissimo. E questo è un altro problema serio. Dove chi si vuole informare da tutta Italia può avere informazioni su quello che state facendo, avvocato? C'era un profilo Facebook che si chiamava Caro Mensa Torino. Per ragioni è stato oscurato e adesso no, è stato, si doveva fare riferimento a un, e quindi lo dica qual è? E poi vabbè, Vecchione Giorgio, e poi c'è, cioè, tra parentesi, Caro Mensa Torino. Caro Mensa Torino, Vecchione Giorgio, Caro Mensa Torino. Bravi, continuate così, io posso essere utile, sarò utile tutte le volte che posso. Continuate con ascoltare Radio 24, appuntamento all'8:15 domani mattina insieme a me, Alessandro Milà, attenti a noi due.